Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Siamo reduci dall'indigestione dell'All-Stars Game di Los Angeles, il consueto carrozzone fatto di tanto, tanto, tanto fumo e pochissimo arrosto, come sempre più o meno. Inutile dire che non dobbiamo né possiamo aspettarci qualcosa di diverso, trattandosi di un qualcosa concepito come una vetrina per il cosiddetto meglio della Lega, che si è evoluta in parallelo con i tempi che stiamo vivendo, quelli delle storie su Instagram, dei tweet che fanno notizia e appunto del molto fumo e poco arrosto. Sarebbe assolutamente noioso raccontare tutto quello che è successo nella tre giorni, anche perché tutti li abbiamo più o meno visti in diretta o dirinterso e tutti già sappiamo chi ha vinto cosa, per cui vi lascio qualche sensazione personale random, considerando che quest'anno ho deciso di far nottata inspiegabilmente, tra l'altro per l'All-Star Saturday, e ho resistito fino alla fine del primo quarto della partita delle stelle. Stavolta però hanno avuto ragione i giocatori in campo in relazione proprio a quest'ultima: seppur sbagliando molto all'inizio e camminicchiando più o meno per tre quarti, la partita alla fine si è risollevata regalando una manciata di minuti finali ben più che dignitosi, oserei dire quasi da ricordare se consideriamo il livello delle ultime edizioni passate. Diciamo che ad un certo punto il signor LeBron James ha deciso di trasformare la solita marchetta in una partita ed i colleghi lo hanno stavolta seguito. Tra l'altro c'è da dire che questo James appare diverso emotivamente da quello che vedevamo fino a qualche settimana fa, risucchiato in un vortice di tensioni e sconfitte di squadra, ed il suo buon umore si è riversato più che positivamente in campo, tanto da vincere meritatamente anche il premio di MVP della serata, con una vittoria della sua squadra involata su quella condotta da Stephen Curry, che in panchina tra l'altro si è fatto volutamente pizzicare dalle telecamere mentre si mangiava i popcorn a inizio ripresa. Sarà la gioia per i nuovi compagni, la felicità forse di essersi liberato dei vecchi, o più generalmente sarà stato preso bene da quell'ambiente, quello di Los Angeles, dove si vocifera possa approdare tra qualche mese. Io, a costo di ripeterlo una volta per puntata, facendo il tifo per vedere il King in giallo-viola il prossimo anno, mi auguro che delle tre opzioni proposte la terza sia la più realistica. Tre cose brevemente sulla partita. La prima riguarda Jimmy Butler, che ha chiesto a coach D'Antoni di non scendere in campo per riposarsi, effettivamente non giocando neanche un minuto della gara. Una cosa abbastanza irrispettosa, seppur in un contesto che con la pallacanestro giocata ha poco a che vedere, come ben sappiamo. Non capisco a questo punto il motivo per cui ha deciso di partecipare piuttosto che declinare l'invito, almeno che non sia stato obbligato dalla Lega. In ogni modo, episodio che non lo fa certamente restar simpatico, soprattutto considerando che il signor Butler era lì pagato per offrire il minimo contributo garantito allo show. Ed anche ammettendo che si tratti di commedia, anche il peggior attore di una compagnia, quello che ad esempio ha il compito di dire tre battute e basta, non può assolutamente decidere a poche ore da una replica di non andare in scena perché svogliato o stanco. E tra l'altro un tale Lou Williams, arrabbiatissimo per l'esclusione, ha subito commentato la cosa su Twitter in maniera abbastanza scocciata, ed era abbastanza ovvio tra l'altro. Altra cosa che ha generato discussioni: l'inno nazionale statunitense cantato dalla Fergie dei Black Eyed Peas, per la verità preceduto da una versione veramente particolare a cappella da parte dei quattro componenti dei Bare Naked Ladies, una rock band che ha lasciato il sottoscritto piacevolmente stupito nell'ascoltarli in quella versione solo vocale. Veramente bravi, e brava anche Fergie secondo me, per quanto la sua esibizione abbia diviso il pubblico. La sua è stata una versione da nightclub, flirtante con sonorità blues ed impreziosita da ammiccamenti sexy alternati con vocalizzi particolarmente complessi. Rischia più volte di andar fuori tono, ma è obiettivamente bravissima, oltre che evidentemente bellissima, o almeno era tirata a lucido per l'occasione, direi. Si è trattato di una versione indubbiamente poco classica dell'inno americano, per questo assolutamente apprezzata dal sottoscritto, che chiaramente non conta un cazzo. Si dice molto poco apprezzata invece da Stephen Curry e anche da altri protagonisti della sfida, osservanti da posizione privilegiata all'interpretazione. Piuttosto divertente per me, che queste cose ad esempio le detesto, anche il piccolo show musical curato da Kevin Hart nell'introduzione alla presentazione dei giocatori. Diciamoci la verità, uno spettacolino di alto livello sotto tutti i punti di vista, chiaramente contestualizzato, è ovvio, che probabilmente valeva almeno un terzo del prezzo del biglietto. Non sono assolutamente un fan neanche di Hart, anzi, per la verità devo dirvi che a parte l'NBA non sapevo neanche chi fosse, ma devo ammettere che se si deve parlare di show, l'edizione della sfida Los Angelina non ha certo deluso le aspettative, anche in termini, tra l'altro, di superstars del cinema e musica presenti al palazzo. Parlando invece di pallacanestro, da sottolineare, oltre a quella del re, la granitica prestazione in campo di un Joel Embiid che ancora una volta impressiona per mobilità e concretezza anche difensiva, ed è molto particolare dire questo in una partita delle stelle. Da segnalare anche un Damian Lillard tra i migliori del team di Stephen Curry, voglioso e capace di fare bene, ed un Russell Westbrook che si accende nei momenti decisivi, realizzando e facendo realizzare nei minuti finali, rappresentante insieme a Durant e James il trio che sostanzialmente decide il match. Ma lasciamo perdere lustrini e passerelle e parliamo di cose serie. Era previsto l'incontro tra arbitri e giocatori, sapete come è andata a finire? Ovviamente è finita a tarallucce e vino. Almeno così si dice, con le due delegazioni a confronto che in definitiva hanno dato la colpa delle crescenti tensioni ad una serie di fraintendimenti. Ad esempio, laddove i giocatori erano convinti che il numero dei tecnici fosse salito prepotentemente e dispiegabilmente in questa stagione, gli arbitri hanno risposto portando numeri più o meno identici alla stagione passata. Chiaramente l'indice è stato comunemente puntato verso il sistema dei mass media che amplifica le polemiche, creandone spesso di nuove e scavando su gravità inesistenti. E anche contro una NBA troppo poco chiara nelle sue comunicazioni e posizioni verso entrambi i fronti. La soluzione è stata quindi quella di proseguire con incontri periodici del genere, sostanzialmente per spiegarsi meglio e da parte dei giocatori per meglio digerire le nuove modifiche a quel protocollo chiamato rispetto del gioco, verso il quale è necessario prestino un minimo di attenzione in più in materia di educazione e di proteste limitate. Tuttavia, se avete visto l'All Stars Game seguente, cioè una partita che non è una partita tanto che conta così poco, avrete notato più di un'occasione in cui, dopo un canestro subito, difensori differenti si rivolgono in modo piuttosto scocciato verso gli arbitri, chiedendo infrazioni di passi. Una cosa che, se ci pensate, considerando un contesto dove i difensori non difendono e gli arbitri non arbitrano, evidenzia quanto la polemica sia oramai divenuta parte del modo di porsi dei giocatori verso i giudici di gara in questa stagione. Difficilmente sarà stato sufficiente, quindi, un meeting per risolvere la questione. Ed a proposito di cose serie, merita un pizzico di attenzione anche la dichiarazione di Adam Silver rispetto ad alcune idee di modifica della stagione, in particolare dei playoffs, per le quali la NBA sta seriamente pensando un'attuazione. La principale riguarderebbe le qualificazioni ai playoff stessi, non più determinate da differenziazioni geografiche, cioè le prime 8 ad ovest e le prime 8 ad est con le due migliori a sfidarsi in finale, ma derivanti dalle prime 16 squadre in una classifica unica. Questo cambierebbe nettamente gli equilibri della Lega e ne muterebbe anche la storia con una modifica epocale. Del resto, se l'andazzo rimane questo, il dislivello di valori tra ovest ed est deve essere combattuto in qualche modo per evitare di dar vita a stagioni fotocopia con finali più o meno scontate, come appare al momento quella a seguire, o quantomeno a venire, quella della prossima estate, anche se ovviamente è sempre meglio dire mai. Due parole sulla sfida del venerdì tra USA e il resto del mondo. A parte la schiacciata in contropiede ad una mano buttando la palla sul tabellone in corsa di Donovan Mitchell, antipasto della gara delle schiacciate della sera seguente, da ricordare i fischi del pubblico durante la consueta corrida degli ultimi minuti di gara, con i difensori Matador che si spostano per lasciar campo aperto a schiacciate spettacolari, molte delle quali sbagliate. Una roba brutta, anche se pure brutta è stata l'accoglienza per l'MVP della sfida, quel Bogdan Bogdanovic in forze Sacramento Kings, che ha dimostrato capacità balistiche per la verità ben conosciute, indubbiamente impressionanti. Ne mette 26 di punti, mostrando una concretezza stavolta apprezzabile, a suggello di una prima stagione nella Lega di tutto rispetto per l'ex Fenerbahce almeno fino adesso, visto che al momento la stessa stagione narra di 11.5 punti per gara nella tristezza rappresentata dai Sacramento Kings ad ovest. Questo ha i numeri per poter diventare un ottimo giocatore già dalla prossima stagione, così come la stoffa della stella ce l'ha anche Lauri Markkanen dei Chicago Bulls, che nel Rising Sun ne mette 15 e nella notte seguente raggiunge la finale dello Skills Challenge, perdendo in finale con una delle rivelazioni della stagione, Spencer Dinwiddie di Brooklyn. dello Skills ci ricorderemo solo il tentativo di Embiid di rubare non completando la prova del passaggio in una semifinale comunque persa dal centro di Philadelphia contro il rookie di Chicago, il quale prosegue un'ottima stagione di esordio nella quale per il momento si attesta sui 15 punti e 7 rimbalzi per gara con ottime capacità dimostrate di tiro da dietro l'arco. Per quanto riguarda Dinwiddie, oltre i 13 punti di media per lui in stagione, in una progressione continua dopo essere entrato nella Lega dalla porta di servizio, scelto infatti con la 38esima da Detroit nel 2014, con i quali ha giocato poco nelle prime due stagioni nella Lega prima di passare ai Brooklyn Nets. Deludentissimo a mio avviso lo spettacolo della gara di tiro da 3 punti, con moltissimi giocatori freddi o comunque svogliati, decisamente poco partecipi. Dimostrazione più evidente la pessima prestazione di un Paul George da appena 9 punti, uno dei punteggi più bassi di sempre nella competizione. Anche Klay Thompson sembra competere in pantofole oppure in hangover, chissà, ma tuttavia riesce a raggiungere la finale insieme ad un sorprendente Tobias Harris ed uno strepitoso Devin Booker di Phoenix. Sarà proprio quest'ultimo a trionfare facendo registrare il record di sempre per la competizione con 28 punti messi a referto. Attenzione però nell'esaltare questo record, che è comunque impressionante, ci tengo a sottolinearlo, visto che i punteggi delle edizioni recenti non possono essere a mio avviso paragonabili con quelle del passato, in cui esisteva soltanto una cosiddetta money ball per carrello, intesa come quella palla che vale 2 punti, quella più grossa multicolore, e l'idea di un carrello tutto fatto di money ball da poter posizionare a piacimento tra le posizioni disponibili non era stata assolutamente pensata. Per Devin Booker comunque almeno un motivo per sorridere in un'ennesima stagione anonima di squadra dopo la prestazione da 70 punti in una gara dello scorso anno. E veniamo in conclusione alla gara delle schiacciate, il piatto forte a livello di critiche ed aspettative di tutto il weekend probabilmente. Avevamo accennato precedentemente a Donovan Mitchell, il rookie di Utah che ha sostituito nella competizione l'infortunato Aaron Gordon. Bene, come saprete la gara l'ha vinta lui, in un modo piuttosto pulito, cioè sbagliando praticamente niente seppur senza picchi particolarmente innovativi per questi tempi. La miglior schiacciata della serata è un 360 gradi al rovescio con palla sotto le gambe di Dennis Smith Jr., penalizzato dal basso punteggio della sua prima schiacciata di eliminatorie e per questo fuori dalla finale. In finale non ci va neanche un deludente Victor Oladipo, a scapito di un Larry Nance Jr. che omaggia e si lascia aiutare dal padre, quel Larry Nance che vinse la prima competizione relativa alle schiacciate nella storia della Lega. In finale la sfida è un testa a testa che a mio avviso meriterebbe una terza schiacciata di spareggio, ma un lotto mal assortito di giudici non è neanche stato in grado di truccare la valutazione dell'ultima schiacciata di Mitchell, che è un omaggio non troppo ben riuscito alla 360 gradi di Vince Carter con Windmill. Tra le quattro schiacciate di finale, la più incredibile resta l'autotapping al tabellone di Larry Nance, che è uno che salta in alto per davvero, apprezzabile solo dopo i dovuti replay. Tutto sommato una gara che alza l'asticella del livello rispetto al noioso showcase dell'anno scorso, anche perché competono giocatori non esattamente sconosciuti e che regala comunque il titolo ad un Mitchell che non si rivela lo schiacciatore migliore del lotto, ma il più infallibile in serata, grazie alla sommatoria di punteggi e poche distrazioni. Probabilmente ne parleremo con altri toni, mi ripeto, se in finale si fosse ricorsi alla schiacciata di spareggio, comprensibile la formazione di una giuria in piena coincidenza con le anime tipiche della città ospitante l'All-Stars Game, quella degli Angeli, con rappresentazioni dal mondo del cinema, della musica, della storia maschile e femminile della pallacanestro professionistica. Tuttavia, se Dr. J è indiscutibile, Chris Rock è invisibile, Mark Wahlberg non si capisce cosa ne sappia di schiacciare. È scandalosa invece la presenza di quell'obeso sconosciuto, almeno per noi, che risponde al nome di DJ Khaled, che secondo il mio punto di vista personale non azzecca un voto neanche per sbaglio, stando troppo basso all'inizio ed eccessivamente alto alla fine. In questo lotto anche Lisa Leslie può raggiungere lo status di esperta assoluta ed è il caso per il prossimo anno o di rimettere giurati con un minimo di competenza o comunque rispetto nel mondo della pallacanestro o nel dar la valutazione definitiva o quindi la responsabilità al pubblico a casa attraverso un voto della giuria popolare, tanto se marchetta deve essere, che marchetta al 100% sia. Chiudiamo così con questa nota polemica non necessariamente riferita a quello emerso in campo in un weekend che, ammettiamolo, poteva decisamente andar peggio sotto tutti i punti di vista. Non sarà stata l'edizione più memorabile di sempre, ma sicuramente si tratta di un episodio di livello superiore rispetto a quelli recentemente sopportati negli anni passati.